Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. L'hashtag è io sono sereno, anzi zen, mi verrebbe da dire. Dovesse andare male questa vicenda, penso che potrò andare a insegnare pratiche zen in qualunque monastero orientale. Quindi avrebbe, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, un ruolo alternativo, semmai Letta, semmai dovessero andare male le cose, potrebbe andare a insegnare nei monasteri la teoria, la disciplina zen. Si dice molto sereno, molto zen, se lo dice lui non sembrerebbe così. Qui invece sembrerebbe piuttosto che le Olimpiadi, le Putiniadi, quelle di Sochi. La vera Olimpiadi si sta svolgendo qui tra Letta e Renzi, sono ore sempre più incalzanti, c'è un pressing, come si dice in termini anche calcistici, che spinge Renzi verso la presidenza del Consiglio. Letta però, se l'avete sentito nella conferenza stampa, poi ve lo racconterò tra poco, ha detto chiaramente che lui non si dimette, quindi è forte questo braccio di ferro. Ecco, tra le gare in questo momento, non invernali ma qui comunque da noi, c'è sicuramente il braccio di ferro, vedremo chi lo vincerà. Intanto, per tenere questo parallelo con le Olimpiadi di Sochi, sappiate che lì è primavera anticipata, un caldo record, tanto che la neve non tiene, pensate un po' le bizzarrie di questo mondo, in Italia e fuori. Ma tra poco vi racconto quali sono stati i fatti principali della giornata, a partire naturalmente da questa sfida. E poi ci saranno altri temi, in particolare parleremo soprattutto di politica, si parlerà anche della bocciatura da parte della Consulta della legge Bossi-Fini. Per le vostre opinioni c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure i messaggi al 349-238-6666. Se scrivete i messaggi SMS, siate sintetici e chiari, per favore. Partiamo con i fatti. Dunque, come vi dicevo, il braccio di ferro sul governo. Letta dice che non si dimette e presenta Impegno Italia 2014. La posizione di Renzi sarà resa nota domani nella direzione del PD. Alfano apre alla staffetta e Napolitano commenta il voto, solo sciocchezze. Addio alla legge Fini-Giovanardi, secondo la sentenza della Consulta è incostituzionale, torna quindi la distinzione tra droghe. Olimpiadi per l'Italia, solo medaglie di legno. Per il calcio, questa sera in Coppa Italia, super sfida tra Napoli e Roma. Partiamo quindi dalle ultime notizie sul destino del governo, quindi dalla conferenza stampa che ha tenuto il presidente del Consiglio Letta, sulla quale ci ragguaglia Elisabetta Fiorito in diretta da Roma. Ciao Betta. Sì, ciao Roberta. Beh, insomma, sicuramente bisogna dire che Enrico Letta resiste, non si dimette, chiede chiarezza al PD. Ricordiamo, la direzione del Partito Democratico è prevista per domani, e anche lancia una sferzata. Sì, Monaco Zen, fino a un certo punto dice: chi vuol venire al mio posto dica quel che vuol fare. Insomma, Renzi, vuoi prendere il mio posto? Questa è un po' la domanda. Passa quindi all'attacco dopo un incontro con un nulla di fatto, in cui tutti quanti praticamente si sono guardati, lui e Matteo Renzi, come nemici, pur essendo dello stesso partito, ricordiamo, il Partito Democratico. E alla fine bisogna ricordarlo, preso... effettivamente, Betta, perché sì, uno pensa che siano partiti opposti, sì, effettivamente. Sì, sembra, cioè... sì, sembra. Allora Romano Prodi era sfiduciato, no, dall'Udeur, qui invece lui rischia di essere il primo premier sfiduciato in aula dal suo stesso partito. Già. Solo in Italia. Allora, quindi un incontro con posizioni distanti, e a quel punto Letta ha reagito, ha convocato una conferenza stampa alle 18 e ha cominciato la sua sferzata contro Matteo Renzi. Sentiamo. Le dimissioni non si danno per dicerie, per manovre di palazzo, perché un retroscena dice questo. Io penso che il rispetto dei confronti delle istituzioni voglia dire che ognuno deve pronunciarsi esplicitamente, ognuno deve dire che cosa vuol fare. Mi verrebbe da dire soprattutto chi vuole venire qui al posto mio deve dire che cosa vuole fare. Ecco, quindi poi Letta ha ricordato, Roberta, quelli che sono stati i risultati del governo, perché noi abbiamo questa visione di questo governo un po' immobile. Invece lui ha detto che il paese va meglio, il segno è più, è orgoglioso di quanto fatto in condizioni difficili. Dopo 3 anni abbiamo cominciato non con addosso la crisi e l'emergenza finanziaria, e poi ha lanciato Impegno Italia, un patto di coalizione per fare anche le riforme, ma per rilanciare l'economia, in arrivo 30 miliardi dalla spending review, dal rientro dei capitali dall'estero e dalle minore spese per interessi. Ricordiamo lo spread che è sceso sotto i 200 punti. Però ha detto: adesso che siamo a un passo per agganciare la ripresa, facciamo come si fa sempre in Italia. Sentiamo un attimo. Non facciamo come spesso capita all'Italia, che appena finisce l'emergenza finanziaria ci incasiniamo sulle nostre vicende. Io penso che sarebbe un errore. Ora che siamo con un'emergenza finanziaria meno forte e meno marcata, cogliamo le opportunità sul tema del lavoro, dello sviluppo e delle riforme importanti che hanno a che vedere con il welfare. Ecco, poi c'è Matteo Renzi. Dalla parte di Matteo Renzi, lui ha lasciato Palazzo Chigi, è andato al Largo del Nazareno con la Smart, perché sappiamo che il segretario PD è molto smart, lui, no? Quindi. È molto smart. È arrivato e ha detto subito, ha mandato un tweet, perché lui è un leader che vuole comunque apparire giovane. Leggo tante ricostruzioni sul governo, quello che devo dire lo dirò domani alle 15 in direzione. Sembra però, voci di corridoio, che passeggiava avanti e indietro molto nervosamente nei corridoi del Nazareno, poi che è furioso con Enrico Letta perché il Premier non aveva fatto capire durante l'incontro della mattina che voleva andare allo scontro finale in questa direzione del PD, che già Pippo Civati ha detto che sarà una direzione western. E ci sarà tra poco Pippo Civati, infatti. Effetto notte. E quindi ribadirà questa cosa, e a questo punto bisogna capire se si va alla Conta in direzione, perché anche Letta ha detto che non è che basta solo andare alla Conta in direzione, che il Premier viene sfiduciato alle Camere. E quindi, insomma, questo potrebbe essere un problema. Allora, ci sono anche altre forze politiche che si stanno un pochino riposizionando, a parte Forza Italia, che ovviamente è avversa a un Renzi Premier, perché questo vorrebbe dire prolungare la legislatura fino al 2018. Allora subito hanno detto no, allora non facciamo le riforme, l'Italicum lo seppelliamo. Ma a parte questo, invece, il nuovo centrodestra, insomma, Alfano chiede che cosa si deve fare. Si parla anche di un possibile allargamento della maggioranza, si parla del fatto che Sel potrebbe entrare in questo governo. Addirittura ieri c'erano ipotesi molto particolari in cui Sel entrava nel governo, c'erano 20 senatori del Movimento 5 Stelle pronti a lasciare il movimento per far confluire. Caspita, un po' di fantapolitica, o forse politica c'è di reale. Tutto. Ecco. Sì, c'è di tutto, Roberta. Grazie Elisabetta Fiorito. Grazie di questo racconto. Grazie della giornata convulsa, molto articolata. Le aperture verso queste ipotesi di una staffetta intanto sono molte. Sentiamo per esempio cosa ha detto il leader del nuovo centrodestra, Angelino Alfano. Chiunque sarà il presidente del Consiglio, e noi ci siamo trovati molto bene con Enrico Letta, chiediamo a chiunque sarà il presidente del Consiglio, noi, il foglio di calcolo elettronico, quello citato da Renzi. Noi vogliamo con precisione concordare i contenuti del programma, perché noi abbiamo idee molto chiare, programmi molto chiari, valori molto chiari cui fare riferimento. E intanto le parti sociali sollecitano decisioni importanti, mentre il ministro dell'economia Saccomanni in un'audizione oggi in Senato ha invitato comunque ad andare avanti sulle misure economiche annunciate. Io spero che obiettivamente le forze politiche si rendano conto della necessità che il lavoro che abbiamo intrapreso in questi mesi deve essere portato avanti con energia e con efficacia. Poi se lo portiamo avanti noi o qualcun altro ha poca importanza. L'importante è che, diciamo, non ci siano interruzioni nelle iniziative, soprattutto quelle destinate al rilancio dell'attività economica, dell'occupazione e degli investimenti. E sempre in tema economico, il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi è intervenuto sul delicato tema dell'unione bancaria, ma a segnare la giornata in borsa è ancora l'effetto Yellen, la neogovernatrice della Banca Centrale Americana. Il FTSE MIB ha chiuso a più 1,3%. Droga, sorpresa, oggi è arrivata la bocciatura della Fini Giovanardi, ma ne parleremo poi dopo col sottosegretario alla giustizia Ferri, per capire anche quanti detenuti questa cosa poi coinvolge. Per la cronaca invece una brutta storia di violenza a scuola, arriva dalla Liguria. Per i carabinieri e il GIP del Tribunale dei Minori di Genova la testimonianza della ragazzina è circostanziata e attendibile. I quattro compagni di scuola l'hanno trascinata nel bagno e poi uno di loro l'ha costretta ad un rapporto sessuale mentre gli altri guardavano, nell'intenzione forse di usare a turno altra violenza nei confronti della ragazzina. A salvarla un'insegnante insospettita dai rumori. È accaduto alla fine di gennaio in un istituto superiore di Finale Ligure in provincia di Savona. Da stamane i quattro studenti, tutti iscritti alla seconda classe, tra i 15 e i 16 anni, sono in stato di di arresto alcuni giorni fa erano stati sospesi a titolo cautelativo. L'accusa è violenza sessuale in concorso. Il giudice ha disposto il loro affidamento in una comunità. La prossima settimana verranno interrogati con l'assistenza di uno psicologo. Il preside e alcuni insegnanti invitano alla prudenza. Catapultati alla ribalta nazionale, tra gli studenti dell'Istituto Superiore di Finale Ligure prevalgono sconcerto e incredulità nell'attesa degli sviluppi dell'inchiesta. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova. E vi do anche un aggiornamento su questa notizia. La ragazza che appunto ha denunciato questa violenza sessuale ha abbandonato la scuola definitivamente perché il suo avvocato dice che anche i suoi ormai ex compagni la stanno bersagliando di sms minatori. Pensate, speriamo che diventino materiale poi davanti ai giudici. Siamo al maltempo, ma in Gran Bretagna. Siamo all'allarme rosso, il primo lanciato in questo inverno britannico nel segno della pioggia e delle alluvioni. Il Met Office, ufficio meteorologico inglese, ha avvertito che in Galles e nel nord-ovest del paese ci saranno venti, se si possono chiamare venti perché sembrano più simili a uragani, fino a 160 km all'ora e che le condizioni metteranno in pericolo la vita degli abitanti. Si immaginano quindi danni gravi che vanno ad aggiungersi a quelli causati da giorni di piogge torrenziali che hanno provocato interruzioni sui tratti ferroviari del paese e problemi enormi con cui continuano a misurarsi le 16 aree allagate dal Somerset al Sare e attorno al Tamigi. Un quadro drammatico che sul piano politico sta creando difficoltà al Premier David Cameron sotto la pressione dell'opposizione che accusa il governo di non avere agito né tempestivamente né con la dovuta efficacia. Leonardo Maisano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra. E parliamo adesso di un lutto nel mondo della musica. Se n'è andato il leader degli Skiantos. Cara mamma, mi piace la panna. Santi, stiamo bene tutti quanti. Nel marzo 1977 a Bologna scoppiava il vento della ribellione. Il 10 marzo la polizia uccideva sotto i portici di via Mascarella lo studente di lotta continua Francesco Lo Russo. Per due giorni durissimi scontri tra manifestanti e forze dell'ordine assediavano la città. L'emittente del movimento radio Alice veniva chiusa con un blitz. E in tutto quel disordine la colonna sonora era quella degli Skiantos. Roberto Fricantoni era il loro leader, il primo vero artista punk della scena italiana. Un po' anarchico, situazionista, un po' demenziale, molto punk. Nel 79, in un concerto storico al Paladozza, salirono sul palco senza suonare e si misero a cucinare gli spaghetti. Lanciavano ortaggi sulla platea, declamavano poesie metropolitane in un flusso di follia e di straordinaria innovazione. Fricantoni poi lasciò il gruppo per intraprendere una carriera da solista, prima i dischi, i libri, partecipazioni ai film. Come amava definirli, sono stati 35 anni di grandi insuccessi. Di lui, nella storia di Bologna e del rock italiano, resterà un ricordo indelebile di una delle ultime rockstar di casa nostra, capaci nello stesso tempo di fare ridere, riflettere e cantare. Parto, che duro parto. Daniele Biacchiesi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E passiamo al calcio per chiudere questo racconto della giornata, di questa prima parte, con Dario Ricci e una semifinale davvero molto attesa in Coppa Italia. Dario? Eh sì, assolutamente sì, Roberta. Napoli-Roma, siamo al 27esimo di gioco al San Paolo, sotto gli occhi di Diego Armando Maradona, Roberta, che è tornato in Italia non tanto per questa partita, ma per cercare di far quadrare i conti col fisco nostrano. Di chiarire finalmente. Sì, staremo vediamo a vedere. Intanto Maradona al San Paolo sta vedendo uno 0-0 che vorrebbe dire, in questo caso, se il risultato rimanesse invariato, la qualificazione della Roma per la Coppa Italia, visto che i giallorossi all'andata hanno vinto per 3-2. Partita. Quindi Napoli quanto dovrebbe vincere? Per anche 1-0 basta, con questo partendo dal 3-2 iniziale. Da segnalare che però le migliori occasioni finora le ha avute la Roma, soprattutto una dopo due minuti con Mattia Destro, ben servito da Pjanic, bravissimo Reina che quasi si è giocato un ginocchio, per fortuna niente di grave alla fine, per bloccare il tiro dell'attaccante giallorosso. E poi al ventiquattresimo, Gervinho di destro, il tiro è stato contratto dalla difesa partenopea. E da segnalare ancora, Roberta, prima della gara alcuni incidenti fra ultranapoletani e forze dell'ordine, perché gli ultranapoletani stanno cercando di raggiungere quelli della Roma. Insomma, clima surriscaldato intorno a San Paolo. Grazie Dario Ricci. Poi capiremo se si raffredda un po' questo clima e se si converge solo sulla passione calcistica. Adesso ci fermiamo perché bisogna aggiornare chi invece va, chi viaggia. E se volete esprimere le vostre opinioni su una possibile scelta, cosa preferite tra un Letta bis, un Renzi al governo oppure nuove elezioni? Pagina Facebook di Effetto Notte, Effetto Notte trattino Roberta Giordano, oppure i messaggi al 349-238-6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci di nuovo molto presto, tra poco affronteremo l'argomento della giornata, però vi riepilogo se aveste mai acceso la radio in questo momento, io dico sempre accendete alle 21, ma comunque io ve li ricordo ogni tanto se siete saliti in macchina adesso o siete a casa, state cucinando, avete finito di mangiare e accendete ora su Effetto Notte. Questi i fatti principali della giornata. Il braccio di ferro sul governo, Letta dice che non si dimette e presenta Impegno Italia 2014, mentre la posizione di Renzi sarà resa nota domani, così si pensa, nella direzione del PD. Alfano intanto apre alla staffetta tra i due, Napolitano commenta il voto solo sciocchezze. Addio alla legge Fini-Giovanardi, secondo la sentenza della Consulta è incostituzionale, torna quindi la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti. Per le Olimpiadi niente di buono per l'Italia, solo medaglie di legno per così dire. Il calcio in Coppa Italia, super sfida tra Napoli e Roma, per il momento viaggiano sullo 0-0. Bene, quindi ci troviamo in questa situazione, in una crisi da gestire come se fossimo in cristalleria. Antonio Polito, ciao, buonasera. Buonasera a voi. Antonio, bentornato, direttore del Corriere del Mezzogiorno e editorialista del Corriere della Sera. Guardavo il tuo editoriale, insomma non eri molto per la quale su questo possibile passaggio, Antonio, tra Letta e Renzi, anche se Letta, l'abbiamo visto, è molto ostico, molto duro, non si dimette, ha presentato il suo Impegno Italia. Ti ha convinto in questa conferenza stampa? Sai, noi stiamo assistendo a una specie di scontro epico all'interno dello stesso partito, tra due personalità, due idee, anche forse due gruppi, che coinvolge le istituzioni. Non è un bello spettacolo, secondo me, non è uno spettacolo da Terza Repubblica, anzi sembra molto vecchio, staffette, cambi in corsa, tu mi dai il testimone, io non te lo voglio dare, insomma. Comunque il Presidente del Consiglio oggi ha fatto una cosa di cui ha diritto, cioè ha detto: siccome nessuno mi ha sfiduciato, siccome il Parlamento in queste cose è sovrano, io rivolgo una proposta alla mia maggioranza, la maggioranza che mi sostiene, per ripartire. Se qualcuno la boccia, il governo cade, io mi dimetto. In sostanza ha chiesto a Renzi di avere, diciamo, di mettere, come si dice oggi, di mettere la faccia sulla crisi di governo, cosa che Renzi probabilmente domani dovrà fare, perché dirà che il discorso di la proposta di Letta non lo convince e quindi cadrà il governo. Ma allora Renzi, non fanno altro tutti che ripeterlo, ha sempre detto negli ultimi mesi: non ho nessuna intenzione io di prendere il posto di Letta, di fargli le scarpe, di diventare Presidente del Consiglio. Letta oggi questa cosa gliela un po' rinfacciata dicendo: son sereno, anzi zen, evidentemente rifacendosi alla battuta di Renzi di qualche tempo fa, che ha detto: stai sereno Enrico, nel senso non voglio prendere il tuo posto. Ma è possibile che sia questa, secondo te Antonio, questa sarà una domanda ingenua, tutte e due, anche Letta ha detto oggi: io voglio continuare a servire il paese, non ne faccio una questione di ruolo. Per Renzi anche è la stessa cosa, ma secondo te invece è una lotta di potere un po' cannibalesca dentro il PD, che tu hai scritto anche oggi, so che si fanno fuori un po' a vicenda in questo partito, quando Berlusconi molla la presa e il suo governo va a gambe all'aria, nel PD scatta il caos, c'è una specie di cannibalismo? Ma secondo me è un cannibalismo nel PD, c'è una antropofagia, cioè si mangiano tutti i leader, i premier che riescono a produrre. Se consideri che in un anno il PD ha proposto 3 premier, uno potenziale che era Bersani, no? Che fu incaricato e tentò di fare un governo sostenuto dai 5 Stelle, uno reale che è Letta però già azzoppato e uno in pectore che è Renzi che sta per arrivare. In un anno 3 premier è un po' tanto. Che tutto questo sia solo frutto di ambizione personale invece non lo credo, perché credo che la politica abbia sempre delle motivazioni un po' più complesse. Secondo me diciamo l'idea che Renzi, le profferte di amore di Renzi erano naturalmente false, ipocrite, nel senso che Renzi vuole andare a Palazzo Chigi, ma ci vuole andare per un complesso di ragioni che non sono soltanto personali. Penso e forse credo che questo gli consenta, per esempio, di condurre la campagna elettorale europea in una posizione più di forza, di non rischiare una sconfitta elettorale lì. Pensa che se continua così il PD potrà pagare le debolezze del governo, quindi ci sono ragioni politiche dietro, non solo l'ansia di potere. Resta il fatto che questo partito è caratterizzato da un cannibalismo, nel senso che ogni volta che tocca al PD o tocca al centrosinistra, il centrosinistra si divide. Scusami Antonio Polito, siccome qui il calcio ogni tanto incombe, Dario Ricci, c'è il Napoli che ha fatto qualcosa di buono? Sì, ha fatto un gol, ecco. Semplicemente, sì Roberta, incursione rapidissima per dirti che siamo al 34esimo, ora 35esimo e da un paio di minuti il Napoli è in vantaggio, la rete di Callejon, bel cross dalla destra di Maggio, Callejon bravissimo a incunearsi tra i difensori centrali romanisti a battere di testa De Sanctis, quindi Napoli 1, Roma 0 quando siamo al 36esimo. Con questo risultato sarebbe il Napoli a raggiungere in finale di Coppa Italia la Fiorentina. Bene, staremo a vedere come finisce questa partita. Ci sono varie partite, diciamo, in corso. Vero Pippo Civati? Buonasera onorevole Civati. Sì, eccomi qui. Deputato del PD, è stato anche concorrente di Renzi alle primarie. Pippo Civati, ancora dell'idea che si debba andare al voto oppure ha cambiato idea nel frattempo? No, io penso che fatta la legge elettorale si deve andare a votare, non so, sono molto preoccupato da quello che sto vedendo, perché in realtà poi non siamo ancora stati coinvolti né dal punto di vista formale né dal punto di vista informale in questa discussione, non lo so, sono molto scettico su quello che sta succedendo, ma vediamo domani in direzione quale sarà il punto della discussione, se Letta insisterà, se Renzi chiederà appunto un cambio netto, quindi nella discussione stessa della direzione di domani, tutte cose che verificheremo nel giro di poche ore. Ma adesso, al di là del voto che bisognerà vedere, appunto, prima deve passare questa riforma della legge elettorale, i tempi un po' si allungano, Pippo Civati, domani che cosa auspica che succeda nella direzione del PD? Ma io spero che ci entriamo già con chiarezza rispetto a chi fa il Premier, perché oggi quella chiarezza non c'è. L'ha chiesta anche Letta, no? Questa chiarezza, ma che tipo di chiarezza vorrebbe che si facesse? Cioè chi dovrebbe dire io voglio fare il Premier Civati? Beh, mi pare che la questione ormai sia abbastanza chiara. Renzi vuole fare il Premier, non è che sta subendo una situazione, l'ha innescata in qualche modo anche grazie ad un consiglio che proviene dall'altra minoranza del PD, quella interpretata da Gianni Cuperlo, che un po' sorprendentemente ha scaricato il governo Letta, comunque ha dichiarato gravi difficoltà che prima non segnalava, no? Non aveva avuto occasione di segnalare, quindi da quello spunto siamo precipitati in pochi giorni in un confronto molto duro tra Renzi e Letta, era un lato sintesi. Quindi io vorrei evitare che domani andiamo in direzione con la questione ancora aperta, se si riesce a comporla prima o quantomeno a chiarirsi sulle priorità che tutti quanti noi ci mettiamo in testa, forse è meglio. Però vorrei guardarla domani, se possibile. Ecco, se dovesse domani, insomma, configurarsi questa chiara possibilità per Renzi di fare un nuovo governo, lei sarebbe contento, Civati? No, non sono convinto dell'idea che si vada avanti con un governo politico di legislatura, perché non mi pare che ne abbiamo il mandato popolare per farlo, che sia preferibile che Renzi abbia degli orizzonti elettorali più vicini, perché io penso che lui sia molto forte in chiave elettorale, che gli elettori del PD l'abbiano scelto anche per questo, e che francamente di questa alleanza che adesso diventa diversa, ma alla fine è basata sull'accordo con Alfano, ecco, di questa alleanza io mi fido fino a un certo punto, perché i risultati che non ha ottenuto Letta dipendono anche dallo schema politico in cui ci siamo mossi. Infatti questa è una domanda che voglio fare a Antonio Polito. Antonio, effettivamente se Renzi formasse un suo governo, c'è tutto il toto ministri, poi se abbiamo tempo ne parliamo, però se alla fine le alleanze restano quelle, il nuovo centrodestra, la scelta civica eccetera, può davvero cambiare indirizzo, strada un governo Renzi rispetto a quello Letta ad avere, insomma, dei risultati? Non cambiando la maggioranza? Lenza e retta, certo, dobbiamo fare ancora le classiche, i giochi di parole che faceva Civati. Ma questa sì è una buona domanda, nel senso che non è ancora chiaro qual è la differenza del governo, di un governo Renzi rispetto a quello Letta, a parte la personalità e la evidente dinamicità del leader, ma per il resto la maggioranza non la conosciamo ancora. C'è chi dice che entra Sel, mezza Sel. Se entra Sel, secondo me non entra ovviamente il nuovo centrodestra. Se entra mezzo Sel, entrerà tutto il centrodestra, non sappiamo ancora. Però se la maggioranza fosse identica e le compatibilità finanziarie sempre quelle, un po' diciamo derivanti alla nostra condizione dei conti pubblici, appunto potremmo avere un po' di smalto e di grinta in più, però non mi sembra che ci sia la possibilità di cambiare indirizzo. Si può cambiare passo, ma l'indirizzo verso cui si va più o meno è lo stesso. Civati, che cosa ne pensa di un possibile ingresso nel governo di Sel, se dovesse entrare? Beh, mi sembra un po' pasticciato anche quello che diciamo sul versante di Sel. Noi facciamo il pasticcio grande, ma anche Sel mi sembra attraversare una fase abbastanza complessa, perché settimana scorsa hanno scelto Tsipras come candidato, quindi una sinistra più radicale che non si allea, no, di fatto con il Partito Democratico. Oggi vogliono entrare in un governo in cui per ora Alfano c'è, e c'è brillantemente, devo dire, no? Perché Alfano allunga la sua traiettoria che sembrava un po' incerta. Quindi c'è una contraddizione, e a me risulta che non tutti siano compatti su questa decisione. Lo stesso Vendola sia in grande travaglio, no? Ieri abbia detto che non si entra in un governo con Giovanardi, scegliendo Giovanardi come simbolo, no? Come sinistro che parte per il tutto. Però insomma i suoi parlamentari mi risultano essere un po' divisi. Leggo alcuni dei messaggi che stanno arrivando nella pagina Facebook di Effetto Notte. Claudio dice: dei politici, chiedere dei politici seri e chiedere troppo nella possibilità di scegliere tra un Letta bis, un governo Renzi e nuove elezioni. Giovanni risponde: preferisco andare all'estero. Alberto, la domanda di riserva qual è? Arturo: tanto non serve a nulla, è già stato tutto deciso e programmato, si andrà comunque verso il disastro dato che non c'è niente di più redditizio delle emergenze e dei fallimenti. Giorgio: preferirei le elezioni subito con la nuova legge, siccome ancora non c'è Renzi al governo. Nicola: nuove elezioni subito, viva il Movimento 5 Stelle. E poi Stefano: io dico elezioni subito, anche se penso che tra governo Renzi subito o voto non ci sia praticamente nessuna differenza. Secondo te, Antonio Pulito? Ma il voto in realtà non è un'opzione, diciamoci la verità. Il voto adesso, oggi, è troppo tardi. È troppo tardi. Se lo fosse, sarebbe già stata applicata. Cioè Renzi tutto sommato aveva interesse anche a votare subito, no? Dopo il successo delle primarie, ma non è un'opzione, non è possibile, perché l'attuale legge elettorale consegnerebbe un Parlamento molto più ingovernabile di quello attuale, e quindi bisogna cambiarla, e tanto è vero che si sono messi d'accordo per cambiarla, ne hanno una praticamente già scritta che va approvata, dopodiché neanche quella da sola basta, perché se si votasse ancora di nuovo il Senato come l'altra volta, quella legge è inservibile, quindi bisogna abolire il Senato. C'è, diciamo, un lavoro da fare di un annetto su queste cose qua prima di poter tornare a quella condizione di normalità democratica che giustamente il tuo ascoltatore segnala, cioè che quando in Parlamento non c'è una maggioranza si va a votare. E tutto questo ambaradam, il governo Letta e l'Arca Intesa, era nato per fare in 18 mesi tutto ciò. Ormai ne mancano 8 di mesi a quella scadenza e si propone di farlo Renzi. E vediamo, però qualcuno lo faccia, ecco. Anche Prodi ha detto qualcuno rischi, insomma, si faccia avanti. Se si faccia avanti, evidentemente non è qualcuno che ha già rischiato, ma qualcuno che dovrà rischiare. Ti chiedo un'ultima cosa, Antonio Pulito. Secondo te c'è il rischio implosione del PD o insomma, alla fine si compatteranno, troveranno una strada? No, implosione no, perché diciamo, tieni presente che in questo momento il PD è molto unito paradossalmente, non so quanto realmente, ma paradossalmente molto unito, perché la minoranza, cioè i nemici di Renzi, stanno dicendo che Renzi deve andare a Palazzo Chigi per ragioni che io ancora non ho compreso fino in fondo. Ah, dici che sono i nemici che dicono che deve andare a Palazzo Chigi? Beh, sono gli oppositori, sono i Cuperlo, i Bersaniani, cioè sono quelli che la minoranza interna, quelli che fino a ieri hanno contrastato Renzi sostenendo che lui si faceva eleggere segretario per poi diventare... in realtà a Palazzo Chigi, mm-hmm. adesso chiedono che lui vada a Palazzo Chigi. Quindi la minoranza vuole Renzi a Palazzo Chigi, la maggioranza è di Renzi che vuole Renzi a Palazzo Chigi, quindi paradossalmente il PD è estremamente unito nel condurre in porto l'assassinio politico del suo ex vice segretario, cioè di uno dei suoi massimi esponenti che guida il governo. Capisco che è una situazione paradossale, ma non ne dovrebbe derivare un'implosione del PD, ne dovrebbe derivare, diciamo, il fatto che il PD cambia il terzo cavallo in un anno. E vedremo come andrà. Pippo Civati, ultima domanda anche per lei. Dice Michele Emiliano, sindaco di Bari e tra l'altro tra i papabili ministri, nel Toto Ministri, dice: non è più epoca per politici che si improvvisano. Governare un paese non è solo essere una brava persona, riconosciuta e competente, ma saper coinvolgere il paese in una visione strategica. Qual è questa visione strategica secondo lei? Così, sinteticamente. Non lo so, guardi, l'unico modo per coinvolgere le persone è farle votare, diciamo. Non... certo, Renzi è stato vincitore delle primarie con un larghissimo risultato, ha mandato in confusione una parte della minoranza del PD, perché quell'altra rappresentata da me dice sempre le stesse cose, quindi ha ragione Polito a dire che sono tutti uniti, l'unico un po' eccentrico sono rimasto io rispetto a questa vicenda. Un po' eccentrico, sì. Ecco, quindi eccentrico anche perché mi sembra un grande centro quello che stiamo costruendo. Detto questo, i pareri sono buoni, valgono sempre, no? Perché c'è buona fede, credo, da parte di tutti. Forse qualcuno spera che Renzi si bruciacchi un po', no? Andando a fare il presidente in queste condizioni, ma sono, spero, veramente una minoranza di maliziosi, di maligni. Dopodiché il problema è politico, però. Renzi è stato eletto come uomo che vince contro la destra, come uomo che faceva saltare gli equilibri, alla fine vince contro la destra, ma grazie alla successione a Letta. In secondo luogo gli equilibri non saltano, perché il Parlamento rimane quello che conosciamo, con tutti i vizi di sempre, insomma. E con tutti gli interrogativi che restano. Va bene, grazie Pippo Civati, poi avremo modo di vedere come va. Grazie Antonio Polito, buona serata a voi. Intanto ci fermiamo perché c'è una pausa pubblicitaria, poi si torna ancora su questo argomento con altri ospiti. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, Roberta Giordano sempre con voi, sempre tanti i vostri messaggi. Vedo per lo più che tutti scelgono elezioni subito, la gran parte insomma degli ascoltatori su Effetto Notte: Nicola, Stefano, Alex, Diego, Vitangelo, Massimo, Rosa. E adesso saluterei, restando sull'argomento del giorno, naturalmente, questa possibile staffetta Letta Renzi, la conferenza stampa di oggi, questo braccio di ferro durissimo. Saluto Lucio Malan, senatore Malan di Forza Italia. Buonasera Malan. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Bentornato. Che pensa di quello che sta succedendo nel PD e di quello che potrebbe succedere nel governo a giorni? Ma diciamo che il Partito Democratico è un partito che consuma molto, ha già consumato uno già l'ha fatto fuori subito, Presidente del Consiglio Bersani. Adesso rischia di far fuori Letta, ha consumato anche due presidenti della Repubblica, Franco Marini e Romano Prodi. Insomma, dicevo prima, sono un po' cannibali. Ecco, sì. Sono un po' voraci, sì. Il che, se il paese andasse a gonfie vele, sono confronti che la politica conosce anche in altri paesi, eccetera. Però purtroppo non è questo il momento di dedicarsi a questi trastulli interni, perché bisognerebbe prendersi cura con effetti positivi dei problemi che ci sono, che sono disoccupazione, tasse, burocrazia che soffoca chi ancora eroicamente tenta di intraprendere in Italia. Mi dico una cosa Malan, ma dopo che c'è stato questo accordo che tanto ha fatto discutere tra Renzi e Berlusconi sulla riforma della legge elettorale, ma anche sulle altre riforme, a questo punto se Renzi diventasse insomma Presidente del Consiglio, che fine farebbero queste riforme? Ma per noi non cambia, nel senso che noi prendiamo determinati impegni e li portiamo avanti. Poi bisogna vedere se la cosa vale anche per la nostra controparte. Cioè noi indubbiamente sulla legge elettorale abbiamo un impegno forte ed è una necessità per il Paese di avere una legge elettorale dopo che la Corte Costituzionale, con una sentenza, devo dire, discutibile, ha deciso di privare il Paese di una legge elettorale, cosa che aveva sempre impedito ad altri di fare. Ma Malan, secondo lei in questo momento, io immagino che voi come opposizione, Forza Italia, andreste volentieri al voto, no? Ma in questo momento, come possibile alternativa al voto, è meglio che Letta continui con il suo governo, questo impegno Italia e le riforme che oggi ha ancora annunciato e promesso, o meglio un governo Renzi? Ma almeno Letta rappresenterebbe una continuità anche personale. Io francamente un partito che vuol far fuori il rappresentante del proprio partito da Presidente del Consiglio, che non è precisamente solo, c'è una decina di ministri del Partito Democratico, altri di area molto, molto vicina, la trovo una cosa davvero, davvero poco spiegabile, e anche perché non ho ancora sentito, oltre a affermazioni di carattere, come dire, extrapolitico, tipo batterie scariche, cose di questo genere, che quali straordinarie cose farebbe Renzi al posto di Letta. Cioè, se ha queste grandiose idee, visto che è a capo in modo piuttosto saldo del principale partito di governo, potrebbe tirarle fuori anche adesso, non si vede la necessità. Dopodiché noi siamo l'opposizione, francamente noi all'opposizione siamo di Enrico Letta e lo saremmo di Matteo Renzi, perché non mi pare proprio che si preannunci un programma molto diverso. Ci sarà qualche colpo di teatro di qualche tipo, ma sui problemi veri, e cioè sulla riduzione della burocrazia, la riduzione delle tasse, cioè avere una mentalità meno statalista e iper regolamentatrice, non direi proprio che siamo sulla strada giusta, neanche con Renzi. Ma infatti il punto ultimamente, proprio nelle ultime ore, sta diventando un po' questo. In molti ci si chiede che grandi differenze ci sarebbero rispetto alla contingenza, alla crisi, tra un governo Letta e un governo Renzi, perché poi la maggioranza e le alleanze dovrebbero più o meno rimanere uguali, anche se ha sentito che potrebbe entrare Sel il governo, forse, tra le varie ipotesi che si fanno. Ecco, io la cosa è interessante non per il fatto di avere un ministro di Sello, o meno che quello può interessare a lui, a questo possibile ministro, ma quali sono le mosse politiche che potrebbero indurre questo movimento, che è certamente a sinistra del Partito Democratico, a entrare nel governo. Vorrebbe dire che il governo segnerebbe una svolta a sinistra, altrimenti non si capisce bene quale sarebbe il senso. E mi chiedo che cosa pensino di questa svolta a sinistra i miei cugini separati del nuovo centrodestra. Ecco, per cui sarebbe, più che ancora di sapere chi fa il ministro, sarebbe interessante sapere quali sono queste svolte che possono guadagnare nuovo appoggio da parte di Selfie. C'è chi parla di qualche dissidente del Movimento 5 Stelle, che insomma è chiaro su quali posizioni sono schierate, non è che vogliono una svolta a destra di sicuro del governo. Senta Lucio Malan, ieri avevo qui a Effetto Notte tra gli ospiti Ernesto Carbone del PD, al quale ho sottoposto un'affermazione di Matteo Salvini, segretario della Lega, che aveva detto proprio ieri sera: ma insomma, apriamo a Renzi, non abbiamo nessun pregiudizio nei suoi confronti. E ho detto: ma se entrasse la Lega nel governo Renzi, voi del PD, voi renziani, sareste d'accordo? Lui, no, un po' di imbarazzo, però ha detto: se ci fossero dei punti di condivisione non ci sarebbe nessun problema. Lei come vedrebbe questo possibile ingresso della Lega, vostra alleata storica, no? di Forza Italia, PDL, eccetera? Io non posso fare l'interprete di Matteo Salvini, ma credo che dal suo punto di vista, ma io dico proprio dal mio punto di vista. Io penso che Salvini volesse dire questo: se Renzi presenta un programma che ci piace, che ci possa trovare delle convergenze, noi non siamo indisponibili. Ma siccome Renzi ha già preannunciato, già ben prima di aspirare apertamente, evidentemente da tempo che lo vuole fare, a diventare Presidente del Consiglio, ha detto che bisogna fare intanto il cosiddetto ius soli, che vuol dire cittadinanza molto più facile per gli immigrati, che non credo che sia proprio un tema che entusiasmi la Lega, anzi palesemente la Lega lo avversa. Chiaro che se Renzi presentasse un programma che piace alla Lega, la Lega lo sosterrebbe. Immagino che non piacerebbe a Selle, probabilmente non piacerebbe a gran parte del Partito Democratico. Poi bisogna vedere il nuovo centrodestra se piace la questione delle unioni civili che porterà avanti. Insomma, vedremo, esatto. Vedremo, è una questione molto composita. Intanto grazie Lucio Malan e buon continuazione, buon grazie. Lavoro. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Tra pochissimo parleremo di Unione Europea e anche della bocciatura della legge Bossi-Fini. Vi ricordo brevemente però i fatti di oggi, questa sfida lanciata da Letta verso Renzi, non mi dimetto, Renzi dica cosa vuole e si presenta alla conferenza stampa con Impegno Italia. Alfano apre la staffetta, Napolitano commenta il voto solo sciocchezze, addio alla legge Fini-Giovanardi, secondo la sentenza della Consulta è incostituzionale, e per il calcio in Coppa Italia, super sfida tra Napoli e Roma. E adesso invece parliamo di legge Giovanardi-Fini, che appunto è stata bocciata dalla Consulta perché è ritenuta incostituzionale. La Consulta ha dichiarato incostituzionale sul in particolare sulla equiparazione tra droghe leggere e droghe pesanti. E allora saluto il sottosegretario della Giustizia Cosimo Maria Ferri, benvenuto, buonasera. Buonasera a lei e a tutti coloro che ci ascoltano, davvero buona serata. Grazie. Insomma, a quanto pare evidentemente questa legge è stata criticata già da molto tempo, c'erano molte polemiche, qualcosa che non andava c'era evidentemente, Ferri. Ma intanto va detto che la Corte Costituzionale ancora non ha depositato le motivazioni e quindi dalla lettura del dispositivo non è facile proprio capire cosa vuole la Corte Costituzionale e l'ha dichiarata incostituzionale su una questione però che riguarda l'articolo 77 della Costituzione, che è molto attuale perché oggi che si parla molto di decreti legge e decreti d'urgenza, la Corte ha detto comunque quella materia, quell'equiparazione tra droghe pesanti e droghe leggere, quindi quell'intervento che è stato fatto dal governo sulla Fini-Giovanardi non poteva essere fatta in quel decreto legge perché fu inserito in sede di conversione in un decreto che riguardava i giochi olimpici a Torino, e quindi interviene su una questione appunto di tecnica normativa e dice non potevate disciplinare le droghe in una materia che parlava di giochi olimpici a Torino e quindi non c'entrava niente. Però i problemi giuridici rimangono in piedi, come lei giustamente ha sottolineato, perché cosa succede oggi? Dobbiamo intanto pensare che in queste ore, e anzi il 21 febbraio, scade il decreto legge che questo governo ha fatto e quindi scadono i 60 giorni, il Senato ora ha tempo 10 giorni per convertire in sede di conversione questo decreto legge, se no decade, dove come governo avevamo introdotto il reato per quanto riguarda la lieve entità della droga come un reato autonomo, quindi oggi con la Fini-Giovanardi qual era la situazione attuale in materia di stupefacenti? C'era stata un'equiparazione tra droghe leggere e droghe pesanti e la lieve entità era prevista non come reato autonomo ma come appunto attenuante. Invece il governo ha fatto questa scelta di renderla reato autonomo. E perché ha fatto questa scelta? Perché oggi, grazie al fatto che sia un reato autonomo per il fatto della concessione delle generiche quando l'imputato è meritevole, col bilanciamento, col giudizio di prevalenza, potevi graduare meglio le pene e quindi anche a seconda della graduazione in qualche modo si poteva attenuare la pena. Però mi dico una cosa, sottosegretario Ferri, una cosa importante è che probabilmente questa decisione della Corte Costituzionale potrebbe avere delle conseguenze immediate su circa 10.000 detenuti, è vero, in parte in attesa di giudizio, altri con sentenza definitiva. A questo punto è... Ma no, il problema qual è? Perché essendo... Allora, noi stiamo convertendo questo decreto legge il Parlamento. Oggi, con questa decisione della Corte, però rivive giuridicamente la vecchia normativa, quindi rivive la legge prima della Fini-Giovanardi. La legge prima della Fini-Giovanardi prevedeva però la distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere, quindi oggi è in vigore la vecchia legge che prevede questa distinzione. Secondo questa legge non solo bisogna distinguere, ma poi le pene sono diverse a seconda che sia un quantitativo enorme o che si sia lieve entità. Quindi nel caso di lieve entità, applicando la vecchia legge prima della Fini-Giovanardo, per le droghe leggere la pena torna da 6 mesi a 4 anni e quindi non è più prevista nemmeno la custodia cautelare in carcere, perché nel frattempo sapete che c'è una nuova norma che per applicare la custodia cautelare in carcere i reati devono essere puniti almeno 5 anni e quindi in caso di lieve entità, applicando la vecchia legge, da 6 mesi a 4 anni, e quindi tutti quelli che sono magari in carcere per custodia cautelare sulla base di una lieve entità, quindi contestando questa ipotesi attenuata, chiaramente non c'è più il vincolo. Però non sono quei numeri che sono stati indicati, assolutamente non sono, quindi 10.000 detenuti, ora sono meno. Dare questi numeri mi sembra eccessivo e penso che proprio non sia questa la situazione. È chiaro che rimane questo problema giuridico oggi. E dobbiamo anche capire cosa fare, perché ad oggi rivive la vecchia norma che quindi distingue tra droghe leggere e droghe pesanti, sono le pene sono divise e poi occorrerà anche intervenire col Ministero della Salute per le tabelle, perché per esempio oggi esisteva un'unica tabella che ricomprendeva tutti i tipi di droga. Invece dovremmo tornare alle vecchie tabelle, come erano prima, alla 1, alla 2, alla 3, alla 4, c'erano 4 tabelle, però oggi dobbiamo pensare che ci sono anche dei nuovi tipi di droga rispetto alla vecchia legge. Io penso per esempio ai cannabinoidi sintetici, alla rosa vaiana, che nelle vecchie tabelle non erano previste, e quindi dobbiamo anche pensare a rivedere le tabelle, inserire questi nuovi tipi di droghe e quindi fare un tavolo col ministero ecco, della Salute. Sicuramente, sottosegretario Maria Ferri, sarà il caso di fare questo tavolo, perché la questione mi sembra molto complessa, un po' più complessa di come sembrava. Io la devo purtroppo salutare, ma ci sarà modo, se lei sarà disponibile, di ritornare ulteriormente su questa cosa, che naturalmente poi dovrà essere modificata questa legge, lei ci diceva, anche con le leggi precedenti. Grazie sottosegretario grazie Ferri. Grazie a voi, buonasera. Grazie, buona serata. Adesso invece parliamo di Europa, sapete c'è sempre il nostro appuntamento serale con l'Europa, a proposito del referendum svizzero che ha approvato l'introduzione di quote per i lavoratori frontalieri, compresi quelli provenienti dall'Unione Europea. Uno studio della Commissione Europea dice che i lavoratori europei che si trasferiscono in altri stati contribuiscono positivamente all'economia locale delle città in cui si stabiliscono. Europa 24 notte. Verso le europee. Alcune conferme, ma anche qualche sorpresa, arrivano dallo studio della Commissione europea sull'integrazione e la migrazione realizzato nel 2011 in 6 città, a Barcellona, Dublino, Amburgo, Lille, Praga e Torino. Gli italiani, ad esempio, sono a sorpresa la comunità più numerosa a Barcellona, con il 31% delle presenze, seguiti dai francesi al 16%. A Torino, invece, la comunità più numerosa in assoluto è quella dei rumeni, il 91%. L'impatto positivo di queste presenze si traduce a volte anche in maggiori entrate per le casse della città, ed è proprio il caso del capoluogo piemontese, dove il gettito fiscale dei contribuenti stranieri frutta nel complesso alle casse pubbliche un netto di 1,5 miliardi di euro. Torino emerge anche per buone pratiche rivolte a stranieri che aspirano a diventare imprenditori. La locale Camera di Commercio con gli uffici delle entrate e della sicurezza sociale hanno infatti messo assieme le loro forze per consigliare e sostenere quelli pronti ad avviare un'attività. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Bene, a questo punto vi do appuntamento a tra poco, giusto per ricordarvi i fatti principali.